iniziare vi ringrazio e saluto cordialmente a nome della Biblioteca Provinciale Claudio Russa, che da 2 anni a questa parte occupa gli spazi al piano terreno qui in questo splendido centro Trevi. Siamo nell'angolo tra via Marconi e via Cappuccini ed è un ricongiungimento anche ideale perché finalmente la biblioteca può lavorare in rete con un centro multilingue al piano di sopra e con tutto il centro audiovisivi e con le varie attività che così si alternano all'interno di questo centro. Infatti in questo periodo abbiamo anche la mostra del CAE sui Dachsbrunn e tutti gli uffici partecipano anche con eventi collaterali. Questa settimana sarà la volta dell'incontro con la scalatrice cieca, anzi per la verità non è ipovedente, proprio ha una menomazione dalla nascita e questa ragazza però l'ha superata brillantemente, infatti è una provetta scalatrice, ha scritto un libro e lo presenterà qui al Centro Trevi in questa sala giovedì. Se vuoi poi vi invitiamo a partecipare a questa splendida iniziativa, a questo incontro. Domani invece, sempre in questa sala, avremo un incontro con Cirino Mario che ci spiegherà la filosofia dei sé, cioè i sé che aiutano a crescere i bambini. Quindi ci muoveremo in un ambito un po' diverso, ma ci piace poter offrire più cose al nostro pubblico, sempre all'insegna della scoperta di un percorso nuovo, di un consiglio per migliorare la propria vita, le proprie relazioni e anche e soprattutto per migliorare la conoscenza che rende liberi. Questo è un nostro leitmotiv che continuiamo negli anni, ormai sono 20 di attività di questa biblioteca e come diciamo ragionavo prima non sono neanche gli anni che ha la nostra autrice di questa sera, che saluto calorosamente, Matilda Strogno. Infatti mi diceva prima che a 18 anni sta frequentando il liceo classico e ha un bagaglio di sogni che auguro appunto che si realizzino, perché facciamo sempre tanti auguri anche ai nostri giovani e sono contenta perché effettivamente nell'ambito delle iniziative per far incontrare il pubblico e gli autori o le autrici è importante anche avere dei volti nuovi e soprattutto dei volti giovani. Perché? Perché spesso noi parliamo di memorialistica ed è una cosa molto importante perché ci aiuta a salvaguardare la nostra storia recente, però la memorialistica e il ricordo fanno parte biologicamente di un'età diversa, ecco. Quindi è bello anche avere dei momenti dove ci proiettiamo in tutt'altri orizzonti verso un futuro e quindi con grande energia, come saprà dimostrare Matilda questa sera con noi, ci apriamo, ecco, a un pubblico più giovane e ad autori ed autrici più giovani. Non voglio dilungarmi troppo perché abbiamo qui questa sera eccezionalmente anche l'assessore Giuliano Vettorato, che ha invito qui davanti a parlare con noi. Vi presento anche Luca Sticotti, forse conoscete già, che sarà il nostro moderatore, e Alessandra Limetti, che sarà la voce e che darà vita ad alcune pagine selezionate del racconto Omin che vi presenteremo. Grazie a tutti. Buonasera, dico scusate il ritardo, sono andato 6.01, ma cioè, come sapete sono nei lavori, c'è traffico, quindi pensavo di arrivare un attimo prima, vabbè. Cosa dire? Spazio della biblioteca, allora, la biblioteca è sempre stata vista come centro di cultura, libri eccetera, ma in realtà l'impronta che l'amministrazione provinciale sta cercando di dare negli anni, quindi non col sottoscritto, è quello di un punto di aggregazione. Cioè, per assurdo noi diciamo sempre, non sai cosa fare, vai in biblioteca, qualcuno incontri. Questo è un po' l'obiettivo. E la serie di attività, tra cui anche quella di questa sera, è un punto di aggregazione, perché ci sono tante persone che verranno a ascoltare, si incontrano, si possono confrontare. Quindi quello che vi chiederei è quello appunto di passare anche questo messaggio, perché per troppo tempo appunto la biblioteca è stata vista per un punto di cultura, ma in realtà deve essere anche di aggregazione. Per quanto riguarda Matilda, vabbè, 18 anni io ho passati da un bel po', eccetera. E, devo essere sincero, ti stavo osservando mentre Valeria parlava e quando Valeria ha detto dei sogni, tu hai sorriso, ti do del tu, mi permetto di darti del tu. Ed è bello perché i sogni sono anche obiettivi. E senza obiettivi e senza sogni quindi non si va avanti. Io ti faccio i migliori auguri. Grazie. Perché tutti i tuoi sogni, due obiettivi si possano realizzare. Grazie ancora e buona serata. Benissimo, allora cominciamo questa serata, ringrazio tutti, ringrazio Valeria Trevisan per avermi coinvolto in questa bella sfida, devo dire, e cominciamo però appunto entrando nel vivo del racconto proprio con le parole selezionate e quindi la prima lettura a cura di Alessandra Alimetti. Jonathan Blake guardò l'ora, era mezzanotte. Loro stavano per arrivare. Ormai sapeva che era solo questione di ore, se non di minuti. Seduto nel suo studio, osservava una foto di famiglia che era stata scattata loro qualche mese prima ad un matrimonio. Sua moglie Michelle, la piccola Megan e Paige. Si soffermò su quest'ultima e sospirò chiedendosi se avesse fatto la cosa giusta. Lui aveva sempre saputo cosa Paige fosse in realtà, perché era stato proprio lui a trasmetterle quel dono, o a seconda dei punti di vista, quella condanna, ma non le aveva mai raccontato nulla. L'aveva sempre tenuta il più possibile lontana da Greenville, dove vivevano quelli come lui, e anche quando vi si erano recati, aveva evitato di farla incontrare con gli abitanti del luogo, che conoscevano tutta la verità. Non aveva potuto però escludere definitivamente quella gente dalla sua vita. Erano parte di lui, erano la sua famiglia, o perlomeno lo erano stati per un lungo periodo, prima dell'arrivo di Michelle, di Megan, di Paige. Frustrato, si passò una mano tra i folti capelli. Quello che stava per succedere era inevitabile e lui lo sapeva. Non era una sua scelta. Sapeva che sarebbero arrivati, silenziosi come ombre, e lo avrebbero fatto sparire con loro, ma la cosa che la sua famiglia e tutti quelli all'oscuro avrebbero pensato era che lui li avesse abbandonati di sua volontà. Una fitta di disperazione gli tolse il fiato. Gli rimaneva una sola speranza affinché la sua famiglia scoprisse la verità, e quella speranza era Paige. Avrebbe tanto voluto svelarle lui stesso la verità in quel momento, ma il tempo non gli era amico, così non gli restava che sperare che la ragazza ricevesse i segni che aveva commissionato per lei in fretta e furia, e che capisse e che lo perdonasse per averle mentito. L'aveva sempre tenuta lontana da tutto ciò che potesse farle notare la sua diversità, con scuse sempre più banali, a cui lei però aveva sempre creduto con la sua ingenuità di bambina. Le invidiava l'infanzia, quella che lui non aveva mai avuto. Era nato ventenne e da lì in poi era cresciuto. Non avevano dato loro un'infanzia, ma non li avevano nemmeno progettati per non invecchiare. E così avevano iniziato a vivere a metà. Gli uomini completi che possono avere un futuro ma non un passato. L'infanzia era per lui una cosa sconosciuta, affascinante e invidiabile. Si toccò la voglia sul collo e si convinse che non c'era altra scelta. Paige doveva capire. Uscì nel silenzio della notte e si sedette su una panca di legno nel suo giardino, in attesa. Non dovette aspettare poi molto. Dal fondo della strada deserta due SUV neri si stavano avvicinando. Erano arrivati. Accostarono sul marciapiede e Clint Novak scese dalla prima auto. Era proprio come Jonathan lo ricordava, l'unica differenza era il colore dei suoi capelli, non più neri corvini ma brizzolati. L'uomo gli si avvicinò con il suo sguardo di ghiaccio e poi gli disse con voce gelida: Jonathan, sei stato proprio difficile da trovare. Avevi dubbi? Rispose lui alzandosi in piedi. Neanche uno, controbatté Novak con un ghigno. Gli altri ti aspettano già al quartier generale, credo che tu ricordi dove si trovi, continuò lui. Jonathan annuì. Purtroppo non riuscirò a scordarlo mai. Novak gli si avvicinò ancora. Il vecchio creatore ha fatto un buon lavoro per nascondervi da noi per 30 anni, ma avrebbe dovuto bruciare tutti i documenti prima di morire. Così noi non li avremmo mai trovati e non ci avrebbero mai condotto a te e agli altri. Jonathan sentì una fitta al cuore. Nonostante gli avessero già dato la notizia, sapere che il creatore, colui che gli aveva dato la vita, era morto, lo faceva soffrire. Novak indugiò solo per un istante, poi disse: «Sali in macchina, Black!» Si aspettava qualche obiezione o replica, ma Jonathan, docile come un cagnolino, obbedì. Si girò un'ultima volta verso casa e sperò che Paige capisse in fretta, perché il tempo stava per scadere. Ecco, l'applauso lo veramente, oltre che Alessandra, serve anche un po' a rompere il ghiaccio. Questa posizione mi è un po' scomoda perché io vorrei parlare con Matilda. Sarà una conversazione, un dialogo, così ci siamo accordati. È interessante appunto il prologo perché introduce tutta una serie di elementi, è un'arte il prologo, no? Il protagonista del prologo è un personaggio che poi per la maggior parte del romanzo sarà assente, però già viene accennato, si fa riferimento invece alla vera protagonista che è Paige. Noi abbiamo 3 storie da raccontare in realtà, che si intrecciano. C'è la storia, il racconto, il romanzo. Naturalmente non vi possiamo raccontare cosa c'è scritto dentro, noi ci danzeremo intorno, faremo degli accenni, cercheremo di stimolare la vostra curiosità per spingervi a leggerlo. Poi naturalmente ci sono le altre 2 storie molto interessanti, sono quella della genesi di come questo libro è nato e si è sviluppato, che è un'altra storia molto interessante. E poi naturalmente c'è la storia di Matilda. Matilda è giovanissima, ma in realtà ha parecchie cose già da raccontare della sua esperienza, perché giusto per dire, dal momento in cui questo romanzo è stato scritto sono passati già 4 anni, e 4 anni in cui sono successe diverse cose. Quindi noi in quest'oretta salteremo un po' tra queste tre diverse storie. Una domanda subito a bruciapelo: il prologo l'hai scritto all'inizio o l'hai scritto all'inizio? Sì. Quindi hai cominciato dal prologo come traccia, sì, perché avevi già più o meno... Aspetta che il tuo microfono non funziona. Vediamo, prova. Ok, bene. Quindi l'hai scritto all'inizio perché sapevi già dove andare a parare, quindi hai in qualche maniera introdotto la trama. Sì, avevo già in mente la storia quando ho scritto il prologo, scusate la voce, mi dispiace. Sì, avevo già in mente la storia, quindi il prologo mi sembrava necessario perché il personaggio del padre fosse presente durante tutto il racconto. Ecco, i due poli, diciamo, i due protagonisti sono proprio questa ragazza, Paige, sì, e il padre che appunto è assente, ed è proprio in questa assenza che scatena in qualche maniera un percorso alla ricerca dell'identità di Paige, dico bene? Sì, esattamente. Appunto, però dobbiamo subito andare a capire come è nato questo romanzo. Allora, innanzitutto non è nato da zero, è nato da una giovanissima che amava e stava già praticando molto la forma del racconto scritto, vero? Sì, ho sempre scritto, fin da piccola piccola proprio, ho sempre definito la mia passione per lo scrivere quasi compulsiva. E ho scritto molti, molti racconti senza mai necessariamente finirli, però non ho neanche mai avuto la necessità di farli leggere a qualcuno, quindi Omi è uno dei tanti, ma probabilmente quello a cui mi sono più affezionata in assoluto e che quindi ho lasciato gli altri leggessero. Ecco, diciamo, questo racconto è nato già più ampio degli altri ed è già nato con l'idea di diventare un libro, oppure... Cosa è successo? No, perché non all'inizio, quando l'ho scritto, ero davvero piccolina e non avevo proprio idea potesse arrivare ad essere pubblicato, o comunque potesse leggerlo qualcuno di fuori, delle persone che conoscevo e di cui comunque l'opinione mi stava particolarmente a cuore e che comunque non avrebbero avuto sicuramente coraggio di dirmi che non era bello in ogni caso. Quindi, sì. Così. Come, allora, praticamente tu, raccontiamo il contesto, cioè tu eri, diciamo, in vacanza con la tua famiglia e scrivevi come normalmente succede frequentemente, se non quasi sempre, no? Sì, ero in vacanza con la mia famiglia subito dopo gli esami di terza media e mi sono trovata un giorno al bar la mattina a scrivere su un blocco, non sui PC o cose simili, perché avevo già in mente da un paio di giorni questo racconto, questa storia, e andando avanti coi giorni mi è preso per l'appunto la scrittura compulsiva, quindi ho continuato, rimanevo lì mattine, pomeriggio, continuavo a scrivere, tant'è che ho finito blocchi su blocchi in quei giorni. Certo, quindi praticamente hai continuato a scrivere, alla fine hai completato durante la vacanza questo libro interamente. Sì. Ma poi è stato naturalmente un po' rielaborato successivamente, però insomma si tratta comunque di un volume di quasi 300 pagine. Sì. Quindi è davvero una scrittura compulsiva, possiamo dire. Ok, però in che modo, cioè, cos'è che è successo che l'ha fatto diventare poi un libro? Penso il fatto che per l'appunto l'ho fatto leggere, quindi ho... Ancora lì in vacanza ne discutevo spesso con mia sorella perché alcuni passaggi magari non mi piacevano troppo e allora ci tornavo su e chiedevo consiglio a mia sorella, comunque, che era sempre lì, anche mia sorella ha sempre letto molto e lo stesso genere di libri comunque. E dopo averlo fatto leggere a lei mi sono accorta che le piaceva davvero, mia sorella è abbastanza critica, quindi ho pensato di farlo leggere poi ai miei genitori e successivamente alle mie amiche. E per sapere cosa ne pensassero, ovviamente dopo averlo scritto al computer e sistemato. E visto che piaceva, mio padre ha ritenuto potesse essere inviato a una casa editrice per vedere se potesse essere accettato e a quanto pare è piaciuto. Certo. Partecipato a una specie di concorso, una cosa di questo genere? Io devo dire che non ho avuto molto a che fare con questo, perché ero in Inghilterra quando hanno selezionato lo scritto. Quindi in qualche maniera il romanzo, il libro ha avuto una vita sua, diciamo, parallela alla tua. Sì. E poi ti sei accorta che era diventato, stava per diventare un libro tra virgolette tradizionale. Sì, esatto. Questa cosa ti ha spaventato? Cosa è successo? Mi spaventa tuttora. Faccio un po' fatica, soprattutto perché l'ho scritto tanto tempo fa comunque e fatico a render conto adesso di qualcosa che ho scritto così tanto tempo fa perché è proprio passata una vita. Sì, appunto, questo è un aspetto su cui poi torneremo, appunto, perché poi confrontarsi con una cosa scritta a 14 anni quando si hanno 18 anni è abbastanza complesso, immaginiamo, quindi non c'era solo la questione tecnica di riprenderlo, finirlo, aggiustarlo, editarlo, eccetera, ma c'era anche il doversi confrontare con te stessa 4 anni prima, che è piuttosto complesso. Però tu, nello scrivere il libro, facevi prima riferimento, mia sorella legge cose come quelle che leggo io, ecco, hai fatto riferimento a un genere letterario specifico nella costruzione del romanzo, cioè, mi interessa molto appunto la costruzione, come funziona la costruzione di romanzo, come succede che a una quattordicenne si presenta davanti una struttura, una modalità di struttura, di costruzione di un testo lungo e questa struttura viene messa in atto. Allora, all'epoca io leggevo sostanzialmente solo romanzi fantasy e qualche thriller, quindi la costruzione di Omin è stata conseguita al fatto che conoscevo molta poca letteratura che andasse al di là del fantasy e del thriller e quindi mi è venuto abbastanza spontaneo, non ci ho ragionato su particolarmente, non ho dovuto pensarci per dividere i capitoli o dividerlo nelle parti in cui comunque è tuttora diviso. Certo. È venuto abbastanza spontaneo. Certo, quindi diciamo molta spontaneità e razionalità strutturale poca. Pochissimo. Quindi comunque vuol dire che c'era un grande talento dietro che ti spingeva perché... Cioè, voglio dire, molti tuoi coetanei fanno fatica ad articolare anche solo qualche singola frase in italiano corretto, per cui riuscire a scrivere comunque un sacco di pagine raccontando delle cose con dovizie non è una cosa da poco. Quindi avevi comunque questo grande talento che ti spingeva, forse in maniera anche inconsapevole. Non so se definirlo grande talento, so solo che scrivere è il mio modo di esprimermi, lo è sempre stato. Non ho mai tenuto particolarmente diari segreti o cose di questo genere, però quando mi succedeva qualcosa di particolare, per esprimere quello stato d'animo scrivevo, ma non scrivevo di quello che mi era successo, scrivevo un racconto che però se tuttora rileggessi saprei dire a che cosa si riferiva o comunque in che periodo della mia vita mi trovavo. Certo, immaginiamo che poi successivamente in questi altri 3 o 4 anni, insomma, invece hai riflettuto un po', ti sei orientata, hai fatto altre letture, quindi ti sono aperte altre porte, spalancate altre porte e altre finestre. Però io vorrei ritornare al libro, cioè saltiamo un po' da storia tua, storia del libro, eccetera, appunto perché vorremmo appunto descrivere un po' qual è il contesto, perlomeno il contesto iniziale da cui prende il via questa storia, e anche per indicare ai nostri ai partecipanti un po' quali sono le direttrici in cui si sviluppa la storia. Però magari prima facciamo una seconda lettura, così ci reintroduciamo di nuovo nel racconto. Le lacrime le pizzicavano gli occhi. Non credeva che un semplice messaggio potesse suscitarle certe emozioni, ma la verità era che in quei mesi aveva sempre trattenuto le lacrime e adesso ad ogni occasione lottavano per uscire. Le mancava la sua vecchia vita, le mancavano i suoi amici, che di lì per prima. Doveva cominciare ad accettare la sua quotidianità senza di loro, ma era dura. Paige si mise a correre diretta in paese. Non aveva voglia di aspettare l'autobus, anche se suo padre le aveva sempre detto che non doveva correre troppo, perché era pericoloso. Ma a Jonathan sembrava pericolosa qualsiasi attività fisica. Paige sapeva bene che il padre era solo eccessivamente protettivo e che lo sport non le avrebbe di certo fatto male, ma lo aveva sempre assecondato per renderlo felice. Correre, in quel momento, fu come un modo per vendicarsi di lui. Corse, finché i polmoni quasi non le esplosero. Era al limite, ormai pronta a fermarsi quando, come per incanto, le sue gambe presero a muoversi così velocemente che i suoi piedi sembravano non toccare neanche terra. Una scossa di adrenalina le percorse il corpo e un forte calore sembrò sfiorarle la schiena. Non fece in tempo a farsi alcuna domanda su quelle sensazioni che si ritrovò davanti alla biblioteca Jenkins. Ma che diavolo era successo? Un pizzicore al braccio attirò la sua attenzione. La voglia color cioccolato era diventata rosa fragola. Paige sussultò. È pazzesco! Si ritrovò a sussurrare. Che cosa è pazzesco? Le domandò una vocina acuta alle sue spalle. La ragazza si voltò e su un muretto che recintava un giardino lì di fronte vide seduta una ragazza poco più grande di lei. Era bassa e minuta e la sua pelle, chiarissima, era priva di qualsiasi imperfezione. Aveva i capelli neri, tagliati al caschetto e due enormi occhi color smeraldo. I suoi vestiti erano molto colorati ma ben abbinati tra loro e un bel sorriso che la faceva sembrare simpatica completava il tutto. Paige la guardò senza sapere cosa rispondere, colta di sorpresa dalla domanda, e infine farfugliò: «Questo caldo!» «Oh, goditelo! Qui è raro, piove quasi sempre!» squittì la ragazza dall'alto del muretto. Poi con un sorrisone balzò giù. «Sei nuova di qui?» domandò a Paige. «Sì». L'altra le si avvicinò e le tese una mano. Molto piacere allora. Io sono Brooke Baker. Ecco dunque, Paige è una ragazza giovane, un adolescente, che proprio nel momento in cui si comincia a scoprire il mondo e si scommette un po' sul futuro, si ritrova improvvisamente ad avere messo in discussione quella che è la sua identità. Quindi come si fa a costruire su un qualcosa che viene messo in discussione? Ecco, esattamente questo è quello che succede in questo racconto, in questo romanzo, e questa vicenda, anche molto drammatica e avventurosa, Paige la vive con un gruppo di suoi coetanei, più o meno. Ecco, questa è stata una scelta all'inizio, ti piaceva l'idea di far vivere la tua protagonista con i suoi coetanei, una situazione avventurosa? Per me era fondamentale che i personaggi fossero suoi coetanei o comunque allora anche i miei coetanei, perché penso non sarei stata in grado di descrivere in modo adeguato la mentalità di un adulto, e quindi mi è venuto naturale fare in modo che tutti i personaggi rispettasse il range d'età che ero capace di descrivere. Certo, quindi in qualche modo hai fotografato questo mondo e anche questo mondo di relazioni, insomma, tra tuoi coetanei più o meno, perché in realtà Peja ha 16 anni, tu hai scritto questa cosa quando ne avevi 14, ora ne hai 18, ma più o meno guardavi avanti di un paio d'anni. Esattamente. E naturalmente gli adolescenti poi si confrontano con un mondo di adulti che spesso, diciamo, non dico mette i bastoni tra le ruote, ma ogni tanto fa anche qualche sgambetto, insomma, a questi adolescenti che guardano al proprio futuro, no? E questo è quello che succede in questo romanzo, no? Sì, direi che quello è uno dei punti chiave. E volevo proprio dare una sorta di autonomia a questi ragazzi, perché così giovani, e dimostrare comunque che potevano cavarsela in qualsiasi tipo di situazione. E quindi per quello le figure comunque anche adulte sono molto rare all'interno del libro, se non quella del padre, che è ricorrente durante tutto il racconto, ma che è anche tanto importante per identificare la personalità di Paige in sé. Quindi è più una figura, è più un'ombra che la segue durante tutto il percorso. E descriviamo il contesto dove, cioè, diciamo, la prima scena dove inizia la storia, dove ci troviamo e poi dove andiamo. Paige abitava a Los Angeles, cioè all'inizio abita a Los Angeles, e poi si trasferisce a Greenville, che è una cittadina non identificata, e proprio per darle una maggiore aura di mistero, in modo che non si potesse identificare geograficamente. Quindi hai inventato tu, cioè, sì. Un luogo inventato. Sì. E poi cosa succede? Rimangono, cioè Paige rimane lì, si sposta, cioè... No, si sposta, ma gli altri luoghi descritti all'interno del romanzo sono comunque tutti fittizi, non sono reali, perlomeno, non che io sappia. Ritorniamo su questa cosa del mettere mano a una cosa scritta 4 anni prima, ecco. Nel momento in cui hai saputo che questo romanzo poteva diventare, sarebbe diventato un libro, ecco, come hai rimesso mano al materiale? È stato un po' difficile, devo dire, perché il primo impulso è chiaramente di scriverlo, perché è cambiato il mio modo di scrivere, è cambiato probabilmente anche il mio gusto in fatto di libri, però ho trovato più giusto che rimanere fedele comunque all'età in cui l'ho scritto. Perché non penso ci sia un giusto o sbagliato, penso ci sia solo un modo di scrivere che corrisponde all'età in cui uno decide di farlo, quindi mi sembrava giusto rimanere fedele comunque all'età in cui è ambientato, in cui l'ho scritto. Ecco, una domanda che forse molti di noi ci poniamo è quanto c'è, in realtà ce lo poniamo sempre quando leggiamo un libro o un romanzo, quanto c'è in qualche maniera di autobiografico, in maniera diretta e indiretta, in quello che si scrive, specialmente appunto se questo avviene con ragionando e parlando di una ragazza di 14 anni. Ecco, cosa c'è di te in questa storia e in questi personaggi? Allora, in questa storia di me non c'è moltissimo, perché non vivo in America, non ho una serie di cose che già, però parlando del personaggio penso mi somigli molto involontariamente. E mi somigliano molto anche i rapporti, e somigliano molto anche i rapporti che lei stringe, soprattutto quello con la sorella, e che è molto simile a quello che ho io con la mia. Ho dato anche la stessa differenza di età a Megan e Paige all'interno del libro. E è molto simile anche il rapporto stretto con la mamma, non è per niente simile il rapporto col padre, cioè mio padre non è scomparso, non è sparito. No? Quindi in un certo senso sì, mi somiglia, ma dall'altra parte viviamo in due realtà molto diverse. Ma dove nasce questa fortissima esigenza di raccontare? Ti sei posta questo interrogativo? Tu hai dei genitori che musicisti, sì. Loro lavorano, vivono con i suoni, tu invece con le parole. Dove è nata questa cosa? In realtà non lo so. Mi viene automatico, è il modo più facile che ho per rilassarmi e comunque per esprimere quello che penso, quello che magari a parole ogni tanto non riesco a dire. Scrivi a mano, sì. Con la penna sulla carta, mm-hmm. Quindi come una volta, sì. Quindi anche questo libro è nato così. Sì. Però nello stesso tempo utilizzi anche i sistemi più recenti informatici, perché ad esempio hai inserito, o tuttora inserisci, non lo so, i tuoi racconti all'interno di una sorta di social network per racconti, no? L'ho fatto per pochissimo tempo in realtà, ho scritto qualcosa, ma racconti brevi comunque su Wattpad, sì, perché al tempo lo usavano molte mie amiche e ritengo ci siano anche un sacco di racconti interessanti. In realtà ho cominciato a usarlo per leggere i racconti delle mie amiche e poi ho pensato che forse avrei potuto usarlo io stessa e vedere come andava. Certo. E l'hai sperimentato e com'è stata l'esperienza? È stata una bella esperienza perché in realtà ci sono davvero un sacco di racconti banali, ma ce ne sono altrettanti che davvero valgono la pena. Quindi quando sento dire che su Wattpad ci sono solo storielle molto da ragazzina, non lo trovo giusto, perché ci sono dei racconti che davvero vale la pena leggere. Ecco, la scrittura tra virgolette tradizionale, cioè quella dei libri, dei romanzi, eccetera, su carta concreta, diciamo, sembra essere un po' lontana, diciamo, rispetto al vostro mondo giovane, fatto molto di digitale, di messaggi rapidi e veloci, eccetera. In questo modo ti muovi in maniera un po', in qualche maniera anacronistica, diciamo. Questa cosa ti pesa in qualche modo? La verità è che quando scrivo mi piace anche scarabocchiare molto, tipo disegnare o cose simili. Oppure se non riesco a visualizzare bene un personaggio, mi serve disegnarlo vicino. Quindi quando scrivo i fogli sono anche pieni di disegni di vario genere, per quello ho sempre usato la carta e tuttora non riesco a fare diversamente. Tra l'altro, appunto, questi disegni in qualche maniera rientrano anche nel racconto, perché c'è questa voglia, diciamo, che accomuna il papà e Paige, che hai disegnato tu stessa sui fogli, no? Sì, è stato un po' difficile spiegarla quando è arrivato il momento di scegliere la copertina, perché non riuscivo a esprimere benissimo l'immagine che avevo in testa, quindi ho dovuto mandare una foto di quello che intendevo. Certo, e quindi poi è stata in qualche maniera interpretata. Sì. Riusciamo a raccontare senza raccontare ai partecipanti dove si fa a parare nel racconto? Dobbiamo in qualche maniera solleticarli, no? Cosa riusciamo a dire? Tu cominci, poi magari io ti aiuto. La protagonista del libro, come avrete già capito, suppongo, è Paige, che a 16 anni si trova a trasferirsi in una nuova città con la madre e la sorella, dopo la scomparsa del padre. E in questa città lei si trova a scoprire molti dettagli del suo passato e molte cose che non le erano mai state dette da parte del padre. E quindi insieme ai nuovi amici che trova in questo villaggio, in questa piccola città, comincia un viaggio alla ricerca del padre, che a differenza di quanto pareva all'inizio, quindi che lui fosse andato via di sua spontanea volontà, non è andato via insomma per abbandonarla, ma tutt'altro, e lei lo viene a scoprire solo molto, molto avanti all'interno del libro, e appena lei lo scopre decide di cercarlo per poterlo salvare, chiaramente per potersi anche confrontare con lui riguardo le verità della sua vita che lui le ha sempre celato. Certo, naturalmente si deve confrontare un po' con gli aspetti anche più negativi, più drammatici della vita degli adulti, a livello, possiamo dire, mondiale, e attraverso l'incontro con gli aspetti più drammatici della vita degli adulti, lei riesce alla fine in qualche maniera a ridefinirsi, no? Questa è un po' la scommessa, no? Sì, sostanzialmente lei non può, si trova a non poter condividere le cose che scopre né con sua madre né tantomeno con sua sorella, e quindi si trova a vivere tutto molto intensamente con questo nuovo gruppo di amici che nel libro l'accompagna, che diventano la sua seconda famiglia, con cui in pochissime settimane si trova a costruire un legame per cui ci vogliono probabilmente anni. E naturalmente lei con questo gruppo nuovo di amici, di coetanei, condivide in qualche maniera un destino che ha degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti molto problematici, possiamo dire, no? Questo romanzo poi, tra l'altro, non si chiude in maniera definitiva, è aperto, no? Sì. Quindi si lascia intendere alla fine, nell'epilogo, che fa naturalmente il parallelo del prologo, ci fa capire che potrebbe esserci un seguito. L'epilogo è nato relativamente dopo, quindi penso di averlo scritto un annetto dopo, perché dopo un anno ho deciso di mettere in ordine quello che avevo scritto a computer, quindi l'ho diviso un po' in capitoli meglio, ci sono stato un po' attenta a certi errori. E ho deciso di scrivere un epilogo perché rileggendo ho deciso che non mi piaceva l'idea che una storia così importante per me potesse finire ed essere chiusa, e soprattutto mi sono sempre piaciuti i finali che lasciano libertà di interpretazione, che quindi non chiudono tutte le porte, e quindi ho scritto un epilogo. Bene, tra poco torneremo sulla rielaborazione del testo per farlo diventare un libro, cioè chiederemo a Matilda come si è sviluppato poi questo rapporto con la casa editrice, però intanto facciamo magari la terza lettura. Il paese era piccolo, ma folto di vie lastricate in pietra. Le casette, bianche, dai tetti rossi, sembravano tutte uguali. Ma Brooke fece notare alla nuova arrivata anche le più piccole differenze, fossero odori, piccole crepe o folti rampicanti. Alla fine del giro, Paige conosceva tutti i posti segreti, gli angoli bui e i rifugi romantici di quel piccolo paese. La sua nuova amica sembrava conoscere l'essenza di quel posto, la sua vera anima. Finalmente si fermarono davanti ad una grande radura, alla fine della quale aveva inizio la foresta. Al centro si ergeva un'enorme quercia che sembrava avere più di 1000 anni. Le sue radici nodose parevano grandi mani attaccate al terreno. Era una pianta magnifica. Brooke, evidentemente emozionata, disse: «Ora il posto più bello di Greenville, a mio parere». Fece qualche passo avanti per poi fermarsi e voltarsi verso Paige con un sorriso paziente. «Vieni, forza!» La ragazza guidò Paige fin dentro la radura. L'erba verdissima era coperta di fiori colorati che variavano tra il viola e il rosa, mentre l'enorme quercia proiettava ombre danzanti sul prato. Era un posto magico, quasi mistico. Paige non aveva mai visto qualcosa di simile, qualcosa di tanto bello e puro nella sua vecchia città. «Sembra il paradiso», commentò la ragazza. «Anche meglio», sorrise Brooke. Ecco, appunto, molto interessante questa pagina perché dimostra la tua abilità nel descrivere un'ambientazione, un'abilità appunto... espressa a 14 anni, poi sistemata magari a 16-17, però comunque mi sembra assolutamente notevole. Questo è lo stimolo, lo spunto per farti una domanda. Allora, come hai imparato a diventare autrice, scrittrice? La tua è autoformazione al 100%? Come si è realizzata? Hai, non so, hai visto su YouTube dei tutorial su come si scrivono i testi? La scuola ti ha aiutato? In realtà no, ho sempre letto molto, penso, quindi penso sia quella la chiave perché non ho mai guardato tutorial. E, sì, ho sempre letto moltissimo e ho sempre scritto, chiaramente. E penso di aver avuto 8 anni quando ho scritto il primo pseudo-racconto, diciamo, che era stato poi pubblicato su un giornalino della parrocchia barra scuola. E già lì seguivo abbastanza un filone di racconti fantasy o thriller comunque. La scuola non l'hai nominata? No. Prendo atto. E, passiamo alla rielaborazione con la casa editrice. Allora, nel momento in cui la casa editrice ti ha comunicato che il tuo racconto sarebbe diventato un libro, un romanzo pubblicato, che cosa è successo? Quali sono stati i passaggi tecnici che hanno portato poi alla stampa del libro? La prima cosa che è successa è stata che sono stata contattata da, diciamo, colei che poi è stata quella che ha supervisionato su tutto il lavoro. E il primo passaggio, che è durato 8 settimane, 12, è stato quello di correzione, chiaramente, perché non avendo scritto a me con l'intenzione di pubblicarlo era pieno di errori di battitura o comunque cose da correggere. Dopo averlo corretto, siamo passati alla grafica, prima interna e poi esterna, e la parte più difficile è stata per l'appunto trovare la copertina, perché avevo un'idea abbastanza chiara di come la volevo e non riuscivo a esprimerla minimamente, quindi ci sono state un paio di prove di copertina prima di arrivare a questa. Dopo aver trovato la copertina è passato un buon mese per arrivare alla pubblicazione, comunque alla stampa, e dopo la stampa si passa alla pubblicità, alle presentazioni comunque, sì. Questa è poi la prima presentazione del libro che fai, no? Quindi abbiamo l'onore di partecipare alla prima presentazione dei romanzi di Matilda Stroglio. Il titolo del romanzo, come è nato? In realtà me lo chiedono tutti, ma non ha un senso, mi è venuto in mente Basta, e non saprei definirlo diversamente. È la prima parola, mi piace inventare parole, ed è la prima parola che mi è venuta in mente, anche se a mia sorella non piaceva per niente, ha provato a farmela cambiare fino all'ultimo. Mi sembra che tua sorella è un interlocutore molto importante, sì, per la tua attività di autrice, devi tenertela comunque preziosa al tuo fianco. Allora, hai scritto il tuo primo romanzo a 14 anni, l'hai pubblicato a 17/18, da grande farai la scrittrice? In realtà vorrei fare il medico, però spero di poter conciliare le due cose. Tu pensi che si possano conciliare queste due cose? Io penso di sì, assolutamente di sì. Quindi si possono avere più identità, tra virgolette, professionali in una... Io penso di sì, penso che se... Allora, in realtà non mi richiede moltissimo, moltissimo impegno scrivere, quindi non è una di quelle cose come studiare, ok? Quindi posso studiare e dall'altra parte rilassarmi, quindi scrivere, certo, quindi può funzionare. Tra l'altro questo è collegato con il fatto che la tua attività di scrittura, il fatto di scrivere racconti, era legata strettamente alla tua sfera privata, cioè sì, fino a un certo punto, cioè esattamente fino a quel punto, sì, tu scrivevi per te. Quindi in qualche maniera hai dovuto fare un lavoro per te stessa nel vederti anche esternamente in una dimensione pubblica. Ci sto ancora lavorando, in realtà non mi viene ancora un po' difficile pensare che gli altri leggano qualcosa che ho scritto, e perché penso che se uno mi conosce bene possa rivedere tanto di me in quello che scrivo, e quindi è un lasciare entrare nella mia sfera privata. Quindi bisogna gestire questa cosa con oculatezza e con attenzione. Sì. Ma è una cosa che più ti affascina o più ti spaventa? Il fatto di... Sì. Spaventa. Va bene, noi leggeremo il tuo libro, leggendo il tuo libro cercheremo di toglierti questa paura, perché secondo me ci sono assolutamente le condizioni perché tu prosegua in questa tua attività, anche perché devo dire sono anche molto curioso adesso, dopo aver letto questo libro che tu hai scritto a 14 anni, di vedere che cosa scrivi adesso, cosa potresti scrivere adesso a 18-19. Prima parlavi appunto che dopo quella prima fase della tua vita in cui hai letto soprattutto un certo tipo di libri, poi hai letto altro, ti sei aperta. Ecco, quali sono le cose che ti hanno più affascinato, interessato dal punto di vista letterario in questi anni successivi? Facendo il liceo classico devo dire che all'inizio le prime letture, proprio appena abbiamo cominciato, la prima sono state sicuramente l'Odissea, quindi non esattamente letture leggere, però è un modo di scrivere e un modo di raccontare che mi piace moltissimo e che soprattutto coinvolge le materie che mi piacciono di più, quindi la mitologia e tutto il resto, ma ho continuato a leggere anche romanzetti rosa ogni tanto, capita frequentemente. Però non mi sono mai distaccata completamente dal fantasy né tantomeno dal thriller, anzi, però diciamo che un po' ho aperto gli orizzonti, tendo a non leggere solo horror, giusto quello. Insomma, la scuola ti ha aiutato a non leggere solo horror, ma no, comunque gli insegnanti che sono presenti in sala, che sono molti, saranno confortati dal fatto che e il liceo ti sta aiutando e forse ti dà anche delle strutture in più da sperimentare poi in futuro, no? Siamo curiosissimi, appunto. Io direi di fare l'ultima lettura e poi chiudiamo. Il sole tramontò completamente, mentre intorno a loro il paesaggio cominciava a cambiare. Dalle pianure che circondavano le ricche, ricche di girasoli e alberi, erano passati ad una lunga autostrada costeggiata da autogrill squallidi e affollati, di viaggiatori che come loro avevano tutti storie e motivi diversi per trovarsi lì. Guardando dentro le macchine altrui per passare il tempo, Paige iniziò a immaginarsi e costruire delle storie. Accanto a loro, in una mini rossa, viaggiavano due giovani, una ragazza dai capelli rossi e un ragazzo dai capelli neri. Loro sono due giovani sposi, immaginò Paige. Stanno andando a Los Angeles per passare la loro luna di miele in qualche hotel super romantico, con piscina e idromassaggio. L'auto degli sposini lasciò il posto a una berlina nera. Un uomo di mezza età e una donna discutevano animatamente. Stanno andando in vacanza per un fine settimana dai suoceri di lui e lei lo sta rimproverando per le dure critiche che lui sta facendo ai suoi genitori. Fu la volta di un'auto dove viaggiava una ragazza poco più grande di lei. I sedili posteriori erano pieni di valigie e lei aveva lo sguardo assente. I capelli biondi erano legati alla meglio e aveva il viso stanco. Lei è appena stata delusa da qualcuno a cui teneva molto e ora è alla ricerca di un nuovo posto, di nuovi orizzonti. Paige? La voce di Chris la riportò alla realtà. Dimmi, volevo solo sapere se tu fossi ancora sveglia, disse lui. Solo allora Paige si accorse che Adam gorgogliava beato, mentre Kelly, accanto a lei, si era arrampicata in un angolo con le gambe strette a sé e il lento respiro che le alzava il petto a intervalli regolari. A quanto pare siamo rimasti solo noi due, sussurrò la ragazza per non disturbare i due fratelli. Eh già, tra meno di un'ora saremo a Los Angeles, disse lui sbadigliando. Non era certo questa l'occasione per cui mi immaginavo sarei tornata a casa, sospirò lei. Lui alzò lo sguardo sullo specchietto retrovisore, in modo da vedere la ragazza negli occhi. Quando finirà questa storia? Ci torneremo insieme. Poi, un po' imbarazzato, aggiunse: insomma, io non ho mai visto Los Angeles. Avrò bisogno di una guida. Insieme? Sì, io e te. Accetto, signor Wilson. Grazie, Pulce. Lei alzò gli occhi al cielo e borbottò di non chiamarla in quel modo, anche se ormai non le dispiaceva affatto. Dire che Pulce è un soprannome che un amico di Paige dà a lei nel corso del racconto, un soprannome comunque affettuoso. E, appunto, anche la protagonista inventa delle storie, no? Ci si inventa delle storie anche nel libro. Quindi, appunto, quanto è importante inventare storie? Perché è importante inventare storie? Penso che tu hai molto da dirci in questo senso. Questo brano particolare è molto autobiografico perché ogni volta che viaggio in autostrada, in macchina, comunque mi annoio parecchio. Quindi guardando le macchine altrui cerco di immaginare cosa potrebbero fare, dove il loro viaggio potrebbe portarli, insomma. E quindi ho voluto inserirlo nel libro, come ci sono stati altri inserti che hanno avuto a che fare con me. Quindi è molto interessante appunto questa possibilità appunto di immaginare delle storie, delle vicende, in certi casi può portare anche a diventare una romanziera, no? Succede anche nella vita, magari anche senza averlo cercato o voluto fortemente. Ci sono magari dei tuoi coetanei che non so cosa darebbero per poter pubblicare un libro, scrivere un romanzo, tu invece ci sei capitata in mezzo abbastanza per caso e adesso ti stai, tra virgolette, abituando un po' all'idea, dico bene? Sì, lentamente, diciamo, ci sto facendo l'abitudine. Certo. Allora, per quanto riguarda la chiusura, io ti chiederei i progetti futuri. Cioè, naturalmente questo non è il primo, e non è il primo e l'ultimo, ma è solo il primo. Ci hai già accennato alla possibilità che Homin possa avere un seguito, ma potrebbero esserci anche altre cose, no? In realtà un seguito esiste già. In realtà se uno apre il desktop del mio computer si trova davanti a una cosa come una settantina di file cominciati mai finiti probabilmente. Quindi con l'andare del tempo è cambiato sicuramente il genere, non penso ci siano più scritti simili a Homin, anche perché penso mi sarebbe difficile riscrivere completamente qualcosa come ho fatto con Homin, e resto molto affezionata comunque a questo racconto essendo il mio primo in assoluto, però sì, non escludo la possibilità di scrivere altro, e anzi mi piacerebbe molto. E magari appunto in quel caso sarai tu a scegliere in maniera consapevole e razionale. Sì. Questo adesso lo faccio perché voglio che sia pubblicato, perché voglio che diventi un libro e ho deciso io di farlo, no? Sì, questa volta mi è capitato un po' tra capo e collo, nel senso che non ho potuto eliminare magari parti che non volevo si leggessero perché avevano troppo a che fare con me, non era proprio possibile a un certo punto, e quindi sono rimaste. Bene, io devo dire ti faccio i complimenti soprattutto per aver accettato questa sfida di rileggere e poi pubblicare una cosa scritta dalla Matilda piccola. Insomma, immagino che sia stata la cosa più complessa da realizzare, la decisione più difficile da prendere, per cui secondo me sei stata brava e hai fatto bene. Grazie. Bene, grazie a tutti per aver partecipato.